con teatri teatri in presenza completa, insomma, e che si torni a finalmente a vivere un anno intero di teatro come eravamo abituati a viverlo, per non andarci, perché poi pubblico non ce n'era neanche prima, ma insomma, magari, però è bene che ci sia la possibilità. Quantomeno, non sto scherzando, pubblico ce ne sarà e soprattutto ce ne sarà a partire dagli spettacoli che già questa settimana andremo a presentare all'interno della città. E dunque, per prima cosa ti porto all'Opera Lirica, vedete un po', da questa sera, per 4 gennaio, al Teatro Vittoria, in scena la Bohème, un allestimento, diciamo, di stampo cinematografico dell'opera integrale di Puccini, che sarà in scena fino al 16 gennaio con piena fedeltà all'opera pucciniana, e a dirigere il lavoro sarà Giancarlo Nicoletti, regista giovane. Per quanto riguarda invece il Teatro Lo Spazio di Roma, vedete, ci sarà Mary il 6 e 7 gennaio di Filippo Maria Macchiusi, la regia di Alessandro Cecchini, ed è un lavoro che racconta di una piazza, uno scatolone e due ragazzi. Mary è questa ragazza invisibile che viene contesa dai protagonisti Filippo e Federico, e si incontrano per la restituzione di uno scatolone con gli oggetti di Mary, e poi insomma è una sorta di passaggio di consegne, no, tra i due che vivranno questa relazione con lei, chi prima chi dopo. 6-7 gennaio, Teatro Lo Spazio. Andiamo ancora avanti, perché il 4 gennaio oggi debutta all'Ambra Iovinelli Arturo Cirillo con Orgoglio e Pregiudizio, la riduzione teatrale del capolavoro di Jane Austen, con un allestimento, insomma, che è già andato in scena in altre città, e un cast di ottimi attori come Valentina Picello, Sabrina Scucimarra, Giulia Trippetta, Rosario Giglio e lo stesso Cirillo, che non disdegna mai, insomma, la scena, oltre alla regia. Quindi da vedere sicuramente al Teatro Ambra Iovinelli dal 4 al 9 gennaio Orgoglio e Pregiudizio. Al Teatro di Roma continua La vita davanti a sé con Silvio Orlando fino al 6 gennaio, al Teatro Argentina. Al Teatro Lo Spazio il 4 e 5 ho dimenticato Luigino di Salvatore Lanza con la regia di Giulia Chiume, e in scena Lara Baldo, ed è un resoconto di una storia d'amore che iniziò da un imprinting fisico fino a una consapevolezza del bisogno di essere felici, che c'è dietro, insomma, il contatto fisico in molti casi. Questo è Luigino, 4 e 5 gennaio al Teatro Lo Spazio. Ancora ti porto a vedere anche questa settimana Il Grande Inquisitore, perché l'8 e 9 gennaio all'Off-Off Theater con la regia di Daniele Salvo, Il Grande Inquisitore da Fyodor Dostoevskij, del grande capolavoro tratto dai Karamazov dell'autore russo, una sorta di spin-off dei Karamazov, Il Grande Inquisitore, che spesso viene fatto in teatro. Questa volta tocca a Daniele Salvo, con in scena Melania Giglio e Daniele Ronco. Ancora, sempre 8 e 9 gennaio, ritorniamo al Teatro Lo Spazio, perché c'è anche l'8 e 9 gennaio un altro spettacolo, si chiama L'Ospite, Luca Refrigeri e Daniele D'Arcangelo presentano questo lavoro, che è una storia che parla di impotenza, di disillusione. Ci sono due improbabili eroine che sfidano ogni tentativo del pubblico di tenersi distante. Sono due sorelle, Monica e Valeria, che si incontrano nella casa di famiglia dopo un lungo distacco determinato da liti, da rancori mai sopiti. Quindi vedremo un po' che cosa accadrà tra di loro. E questo per quanto riguarda appunto il Teatro Lo Spazio. Io ti porto anche al Teatro India, dove già da ieri sera è cominciato, sarà fino al 7 gennaio, il Festival Contaminazioni dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico, e insieme all'Accademia di Belle Arti, al Teatro di Roma, all'Accademia Nazionale di Danza, insomma un po' tutti ci sono, ed è il festival che presenta le nuove produzioni dei ragazzi dell'Accademia, l'effetto autogestito, ecco, degli allievi attori, registi drammaturghi dell'Accademia, che presentano, fanno degli incontri, dei talk anche con grandi registi, con grandi attori, e anche delle presentazioni di nuovi progetti futuri. Per quanto riguarda il Teatro di Roma, c'è da ricordare anche al Teatro Argentina, 8 e 9 gennaio, ancora l'opera lirica con la Carmen di Bizet, il direttore che sarà Vincenzo Gardani, il maestro Vincenzo Gardani, la regia di Roberta Provenzani, quindi la musica di Bizet anche al Teatro di Roma, oltre che al Teatro Vittoria, quindi sarà anche questa settimana dedicata all'opera che fece suicidare probabilmente Bizet dopo il fiasco della prima rappresentazione, e poi il successo di Carmen dopo è diventato inarrestabile, è stato rappresentato poi in tutto il mondo. Dedicato poi invece ai più giovani, sempre al Teatro di Roma, al Teatro India, continua il festival per le nuove generazioni, Teatro di Narrazione Voce e Parole, con Flavio Albanese che il 5 gennaio alle ore 17 porterà L'universo è un materasso, le stelle un lenzuolo, scritto da Francesco Nicolini, ed è un racconto del tempo, diviso in 4 capitoli. Il primo racconto in cui il tempo non esisteva ancora e l'origine del tutto attraverso il mito si rifà, insomma, la teogonia di Esiodo, e poi il secondo in cui il tempo è ciò che viene colto all'occhio umano, il terzo la rivoluzione copernicana e poi l'ultimo capitolo è quello dedicato al Novecento, la rivoluzione di Einstein. L'altro spettacolo è un pochino più fruibile forse, il 6 gennaio, Le avventure di Pinocchio, raccontato da lui medesimo, sempre diretto interpretato da Flavio Albanese con la collaborazione di Marinella Anacleto, sempre alle ore 17, il 6 gennaio di pomeriggio. Gli ultimi due appuntamenti sono due lavori che saranno in scena, uno al Teatro Tor Bella Monaca il 5 e il 6 gennaio, Non è vero ma ci credo, di Peppino De Filippo, con la regia di Leo Muscato, e in scena con molti attori, ma sicuramente in mezzo a loro ci sarà Enzo De Caro, uno degli eredi della tradizione partenopea. Una tragedia tutta da ridere, così viene raccontata, insomma, l'avaro imprenditore Gervasio Savastano vive nell'incubo di essere vittima della iettatura, e la sua vita diventa un vero inferno, e nella gente, diciamo, vivere sicuramente tutto ciò che teme, e quindi Non è vero ma ci credo, 5-6 gennaio Teatro Tor Bella Monaca, mentre invece al Teatro Biblioteca Quarticciolo 8 e 9 gennaio ci sarà la nostra amica Francesca De Sanctis, che presenta per la prima volta una versione teatrale del suo romanzo Una storia al contrario. Sarà Elena Ardigo a curare la regia e la stessa Ardigo in scena 8 e 9 gennaio, sabato e domenica. Questo racconto dedicato alla storia di giornalista di Francesca De Sanctis, Una storia al contrario, parte dalla chiusura dell'Unità nel 2017 e cerca un po' di andare a ritroso per identificare un po' la professione del giornalismo per come l'ha vissuta lei, che ha iniziato appunto in una redazione definita, ora è a fare un lavoro freelance, quindi si è evoluta con lei la professione. Andremo a vedere il contatto tra questo e la storia poi della sinistra italiana proprio al Teatro Quarticciolo 8 e 9 gennaio. Con questo è tutto, abbraccio a tutti. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.